collegamento telefonico con un compagno dalla Val di Susa, che intanto saluto, ciao. Ciao a tutti. E allora, proprio perché si parla di devastazione, penso che a tutte e a tutti la prima cosa che viene in mente è proprio quella che riguarda il territorio. Scusate, non sento la domanda. Ci senti? Adesso sì. Ok. Proprio perché parlavamo appunto di devastazione, dell'interpretazione che si può dare di questa parola, la prima, quindi il primo legame che ci viene in mente è proprio quello che riguarda l'impatto, insomma, che hanno le attività economiche sul territorio, anche quanto questo poi sia legato chiaramente alla discussione, al mettere in discussione, al criticare, al lottare contro invece un modello di sviluppo capitalistico, che è quello appunto che ci schiaccia quotidianamente. Insomma, la lotta Nottavi in questo momento ci sembra un po' come dire, quella che sta portando molto, in maniera molto forte, avanti queste istanze, e che però allo stesso modo ne viene colpita come dire, con una forza altrettanto, almeno nel tentativo, altrettanto pesante, no? Visto che ci sono appunto in questi giorni i processi proprio per i compagni e le compagne che sono state arrestate durante le ultime manifestazioni, in particolare quelle del 3 luglio. Ad esempio la Val di Susa penso che possa essere calzante. Qui da più di un anno un pezzo del nostro territorio è stato militarizzato, e questo tutti penso che più o meno lo sapete, e abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che sono le grandi opere del nostro paese, cose che normalmente vengono costruite, territori che normalmente vengono devastati. Qui in Val di Susa oggi abbiamo la possibilità diciamo, di vederlo da vicino, non è una cosa marginale che viene nascosto altro, ma è una cosa che abbiamo davanti agli occhi tutti quanti. E in questo pezzo di territorio che è stato militarizzato da un anno, nonostante non siano ancora partiti i lavori, in quanto comunque sono un mare di difficoltà, per lo più appunto dovute al conflitto aperto che c'è quotidiano col movimento, con la popolazione della valle che cerca di opporsi e di comunque fare pressione su quella recinzione, su quel recinto, in questo anno quello che sono riusciti a fare è comunque a modificare l'aspetto, il panorama di questo territorio che hanno occupato, e da quando sono, diciamo, le forze di occupazione, quindi la polizia che difende quelle reti, le ditte che vorrebbero comunque aprire il cantiere sono lì, hanno di fatto cambiato completamente l'aspetto, hanno distrutto tutto quello che c'era. C'era un bosco bello che ci ricordiamo tutti, oggi c'è comunque solo più fango e un territorio brullo, assolutamente privo di vegetazione. E questo penso possa essere l'esempio di che cosa intendiamo noi per devastazione di un territorio. Poi in questi giorni, in più, come ricordavate, abbiamo anche un sacco di udienze per vari processi. Ce n'è stato uno che si è chiuso un paio di giorni fa per due compagne che erano state arrestate durante una notte lo scorso autunno, appunto al fine dell'estate. E in più c'è il processo quello grosso per i 46 imputati appunto accusati delle manifestazioni del 27 giugno e del 3 luglio scorso. Eccoci, no, se non...